questo segnale è via di Bobby 7 e ho aumentato di 2. Se adesso arrivi 9, 9 a picchi positivi. Meglio così, mai ha trovato la soluzione. Ho spostato perché, ti spiego velocemente, io ho un terrazzino lungo 12 metri e l'ho spostato a destra del terrazzino, l'ho messa a sinistra verso Sassari, dai, capito? Perché mi sono piazzato tutta una veranda lunga che copre quasi tutto il terrazzino e l'ho dovuta spostare per forza. Evidentemente questa è una posizione migliore, boh? Sì, anche qua è oggi, dai, poi chiuso. Anche qua eri 7,5-8, adesso sì, 9 più. Come ti ha detto Gianni, anche qua, come si è vista ottica per me, però hai aumentato notevolmente, pensavo che avessi comprato finalmente un amplificatore. Complimenti allora, dai, a volte ci prendiamo un bicchiere d'acqua, basta la posizione e si è a posto, dai. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Avanti, va. Ciao Claudio, da. Comunque, se ti fa effetto occhi o cosa prendi, Brufen, loro dovrebbero trattenersi, o fra poco inizio a cucinare qualcosa. Gianni, guarda che ti ho mandato un video di come arrivi, così vedi proprio il segnale sulla scala, no? Che è diversa dal 3009 questa scala, sto Smitter. Sì, ma ci credo, Marco. No, per avere un'idea di come lo Smitter pure, poi che sia veritiero, non lo so. Comunque un ottimo segnale, dai. Al limite si fanno le prove in distanza, se riuscissi ad andare Alghero, Stintino, con la barra mobile, vabbè. Qualche giorno ho provato con me, che col furgone, fanno questo Stintino. mi sto benino con lo Smitter. Baracchini sono, sembra un HF, è un miserabile baracchino. Vabbè, comunque fa la sua scena, la fa. È bellino. A te come 60. Come smettere il baracchino di 60? Mi pare che siano molto pochi, se ce ne sono altri non lo so. Ma tu avevi il 3009, Marco. Usa il 3009. Sì, sai cos'è? Questo era fermo da un po', EUG, per farlo funzionare, poi mi piace perché non ha il bip questo. Che cos'è questo? CRT 7009. Quindi è quello che è quasi uguale, là. No, questo ha una forma, sembra un veicolare bibanda. No. Non mi piacciono questi stretti, non mi piacciono. Tipo quei bibanda che hanno la mano un po' la grande e il baracchino è piccolo. Quello cosa di Jupiter, no, il Jupix, una cosa del genere. Non ce l'hai ancora. Il Jopix, ma quale? Quello col frequenzimetro verde? Quello l'avevo dato. Ah, l'avevi dato, quello era bellissimo. Quello era veramente bello. Bah, era quello che usavo meno, purtroppo. E poi c'era un qualcosa sull'FM da sistemare. La modulazione FM non era ottimale. Anzi, tutt'altro. Boh, vabbè. Vabbè, non è un mio problema più, dai. Tutta roba fattibilissima, insomma. Infatti, lo davi a un bravo tecnico e te lo faccio. Sarà che l'ho comprato da Mister Lucca lì, come si chiama? Renzo Montagnani. Mi è stato sulle palle quell'apparato. Boh. Vabbè, a proposito, Claudio, c'è ancora? Cos'è Media World? Media World? Luca Montagnani, cos'è Media World? Oddio, no. Ho detto Renzo Montagnani, l'attore, no. Si chiama allo stesso modo, ma vende radio. E non le ripara, però. Fa finta di ripararle. Ne so qualcosa io, e non solo io. No, Magic Phone, già. È la brutta esperienza avuta con quell'altro apparato, non ho preso più niente. Tu ti ricordi anche che diceva che era esaurito l'apparato, invece è rimasto per mesi ancora in vendita. Ah, lo stesso che ha avuto l'apparato di modificata a me, l'hanno 48 modificata dalla fabbrica, che aveva l'ottimo modulatore in tutte, è durato due giorni, che se poi si aspetta non si è più riacceso. Quello lì, quel bastardo, che mi doveva mandare lo scontrino perché ci si era dimenticato di mandarlo, la garanzia, bastardo, non me l'ha mai mandato. Oh, io mi sono trovato per accordo da Radio Svizzera. Venga da quel signore. Oh, ma non l'ho mai contattato quello lì. No, non l'ho mai contattato. Comunque anche questo dove ho preso l'antenna era abbastanza gentile, dai. E mi ha detto che tre giorni me l'ha mandato, ma tre giorni me l'ha mandato. Io ho comprato da Radio Svizzera, ho comprato il microfono, il Proxel che uso il furgone, e il coso, il 3009, il come si chiama, il 3009, il Superstar 3009. Normale? No, il modello USA. Ah, quindi quello che esce con più watt? Quello che esce con più watt, sì. Ho capito. Già sono cose belle. Se c'è gente che frequenta, a me mi è sempre piaciuto comprare apparecchi. Io sono peggio di Marco è peggio di me. Perché ho l'antennino piccolo, perché se metto l'antenna quella lunga che ho, mi sentite proprio bene ad approfondire. Io già lo so, io dalla macchina arrivavo a 9,5 a Sassari, arrivavo più forte di te. Io mai l'ho messo sempre l'antennino, capito? C'è l'antenna lunga. No, ma io normale, il baracchino, il superstar normale. Vabbè, quanti watt dà? Come? Quanti watt dà il superstar, quello che ha preso tu? Ma dovrebbe dare 20 watt, 20, 22 watt. Mi ha fatto. Io esco normale, uscivo con un watt, infatti un watt e mezzo. Perché era tarato per usarlo con lineare, quindi quando uscivo senza lineare era un watt e mezzo, manco 5 watt. Ecco perché non posso piazzare io il lineare, il furgone. Perché? Perché ho già l'apparato che esce con più watt. Ma sta abbassando i watt da dentro l'apparato, se c'è qualcuno che lo sa fare te li abbassa e poi lo puoi usare. Te lo metti a un watt e mezzo e poi usi il lineare, vedi come ti muovo. No. Quello ho comprato nuovo in pacca, ancora il cielo fanno attorno alla casa, diciamo, non lo tocco, no, quello non si scaccia la vita, è così, sto e rimane così. Vabbè, ma quello non è niente di che. Se tu lo fai uscire di meno di volte che devi uscire, non li fai nulla, se lo fai uscire di più è che li fai cosa? Che praticamente sforzi i componenti, ma se tu lo abbassi, i componenti altri sforzano meno, avanti ma. Ehi, a me piacevano sempre bassi di, no? Sempre 4 watt, in modo che puoi pilotare meglio qualcosa, ma io poi non ne piloto, non sono linearomane. Oh Marco, non so fatto che il gara si viene abbandonato. Ma l'altarino non entra più. Entra, c'ha problemi adesso, c'ha problemi con i vicini di casa, di nuovo. Sempre la storia che disturba. E allora? Adesso c'è l'omologato, no, c'è l'omologato. È andato stamattina alla polizia postale, ha detto che non li compete, che devono andare dalle scorrate. Perché gli hanno detto che non denunciano. Ma scusa un attimo, ma hanno ancora il televisore a tubo cattolico, come fa? Adesso vuol digitare terrestre a disturbare il televisore. Sì. Se l'impianto TV d'antenna compromesso disturba, e come? Infatti la colpa è loro. Io gli ho detto, Natali, tu c'è tutta norma di legge, tu devi modulare non solo la sera, mattina, pomeriggio, sera e notte devi modulare, ti devi fare schiattare, poi se hanno problemi chiamano il furgone delle Scopost, verificherà che lui non ha niente, c'è tutto a posto e si cambiano le antenne se vogliono vedere la TV. Ma il discorso l'abbiamo fatto mille volte, e Natalino deve entrare in radio, gli ho detto anche stamattina, ci sei Natalino? Boh, vabbè, però così non se ne sa mai allora, cioè, inutile che appena premi la portante ti bussano la porta o ti telefonano. Poi cominciare a diventare molestie, gliel'ho detto, se cominciare a diventare un po' troppo invadenti, poi procedi tu, cosa che ti dico. Sì, ma ci ho pensato l'antenna, giusto? Ha fatto tutto bene. Tu c'ha tutto, c'ha l'omologato a norma CE. Non c'ha lineari, non c'ha amplificati, non c'ha nulla, l'antenna sì, potrebbe essere un po' bassa, ma allora lui c'ha l'antenna credo attaccata alla sua, l'antenna attiva attaccata alla sua antenna di baracchino e non disturba, niente, niente. Disturba quelli in fondo, quelli vicino, il problema è loro, vabbè, discorsi già fatti mille volte, dai. Vai Gianni. Ma questa gente ignorante, sai cosa dice? Si corrompono il baracchino, noi lo vedevamo bene, come tutti hanno messo il baracchino, lo vediamo male, questo è il problema, ce lo stai causando tu, non noi, capito cosa ti dicono? E non c'è, non è uno solo, sono in tanti, sono due o tre, capito? Addirittura due o tre, che etica. Sì, dice che una proprio gli sparisce lo schermo, gli fa schermo nero, no? Bisogna vedere il cavo com'è, il miscelatore, l'antenna stessa, non lo so, comunque non lo vogliono capire, pensa che sono talmente meschini che lui si era offerto di cambiargli a proprie spese l'antenna TV, tutto l'impianto TV, hanno rifiutato pur di non farlo parlare, figurate che, vabbè, lasciamo stare. Quella gente che ti fa dispetti pure alla fine, meno già che come dice, ti fa dispetti alla macchina e cosa. Gli altri hanno ammazzato il gatto. Ma anche lui può fare dispetti se vuole, Poi se la situazione dovesse degenerare troppo, già ha roba con cui difendersi. Sì. Oh, via. Se avessi avuto l'antenna che c'ho io non avrebbe fatto TV di quella. No, se loro hanno l'impianto compromesso tu puoi usare anche un watt, loro prendono il disturbi lo stesso. Già, già. Non credo. E come mai hanno un disturbo? C'è quello dell'ultimo piano che ha l'antenna incollata alla mia, l'antenna TV incollata alla mia. Una volta ho attaccato il linearetto, no? Per un po' di giorni, poi ho chiesto, per caso disturbo, vedete malati? No, no, perfetto, figurati. Lo so, ma l'antenna che c'è l'antenna uguale alla tua? Sì, è anche quella che ha Eugenio, li ho contagiati io che praticamente. No, è l'unica che ho trovato disponibile lì alla GPC. Ah, per quelle OG, lì hanno quella, al massimo hanno il modello mezz'onda pure, quando è disponibile, però è meglio 5 ottavi, fidati, guadagna qualche dB in più. L'altro giorno sono andato a Bari a un magazzino per un tomate, tutti gli scatoloni di cose, non pare manco nei gusti. Va bene, poi avevo sentito questa Energy 5 ottavi, sa che me l'ha data dietro anche lui, 60 euro, che da me. 60 euro, caspita, un prezzaccio mi costa meno che online, meno che online. E comunque antenna, a proposito di antenne, ho già, a te stava piacendo la Sirio Tornado, però la Sirio Tornado era simile a queste, cioè era un'antenna molto leggera, pesava 2,9 kg, buce e tutto, no? Con staffa, vitterie. La mia pesa per esempio completa 2,5 kg, quella era 2,9 kg, però troppo sottile, ti ricordi cosa ti avevo detto, se cambi antenna vai a migliorare, cioè prendi una 5 ottavi nuova, tipo la, qual era quella Sirio con quella bella che ti avevo detto, non mi ricordo il nome dell'antenna, modello ammiraglio mio, però senza il lampione, già hai capito? Sì, ho capito, me l'avevo fatta, ci sono andato anche a vederla. Però io ero indirizzato tra quelle due, la V-Master e quella lì. Poi ho opzionato per la V-Master perché ho pensato, non mi rompono le balle le cornate con i radiali, che me ne cadono ogni tanto. Quella lì resiste a 160 km orari di vento, sempre, dipende sempre come viene piazzata con l'antenna, perché c'ha un cavo che parte da sotto e poi c'ha un attacco tipo di quei pieve che si mettono nel TMR, l'attacco fatto così. E si attacca un filo con l'altro. Praticamente tu devi attaccare gli elementi uno con l'altro, devi fare in modo che il filo rimanga tirato e arrivi giusto giusto alla cima. Quindi cosa devi fare? Devi tirare elemento per elemento. Se tu, per dire, un elemento lo tiri di più degli altri, diventa debole l'antenna. Devi tirarlo piano piano, uno a uno, fino a quando arrivi al culmine, capito? Sì, sì, l'ho visto, almeno su internet ho visto i pezzi, le fasi di montaggio su video, roba del genere. Maia. Sì, poi non è radiali, poi vabbè, de gustibus, a me piace l'alluminio, l'avevo già detto, è una fesseria, però a me piace l'alluminio. Quello peraltro poi mi ha detto Natalino che non è vetroresina, il tubo è in PVC, forse è meglio ancora, no? O no? La vetroresina tende a fare tutte quelle cose che ti pungono le mani, no? Le fibre. Esatto, è PVC, sì. Se tu hai modo di comprare dei tubi in PVC, puoi fartela più tranquillamente, senza mettere l'antenna, perché l'antenna, che il problema che c'è, è che si vetrifica. Quello che stai dicendo tu si chiama vetrificazione. Si vetrifica e praticamente ti punge le mani quando vai a toccarla, che è un bell'ombra, è tipo la mano di vetro, là, rimane. No, no, questa qui è PVC proprio, è bella tosta, ti sto dicendo che non è come dicono che è debole che cosa, è bella tosta, fottiti, solo che è molto alta, capito? Quindi non devi sbagliare, mettere dei centimetri negli elementi, uno più corto e uno più lungo, perché se tu metti il quello per la più corto, dove c'ha l'intacco che c'ha tutti gli spacchi, diventa più debole, invece se tu lo entri di più e lo metti tutti quanti allo stesso livello, l'antenna va bene. Ma quindi già tu non hai più la, come si chiama, la manco qua, hai cambiato? Sì, ho la Game Master, quella senza radiale. Stai trasmettendo senza radiali. Esatto, questa qua è un dipolo verticale. È un dipolo verticale. È praticamente guadagna anche 2 dB in più di quelle antenne lì. Ah, bella, lo vedi. Mi sarebbe piaciuto prendermi quella lì. Così è tutto. Cioè, perché ci sono le cornacchie, da me che ci mettono sopra radiale. Da 170 euro con le spese di spedizione, 170. Però funziona bene, cioè voglio dire, il segnale è bello forte. Questa funziona bene, specialmente in lontananza. Quando fai DX in lontananza funziona, da quello che dicono, perlomeno non è più furba, eccetera. E quanto è alta? 7 metri quasi. Ah, se non per la mia antenna, quindi pesa parecchio anche. È leggerissima, pesa pochissimo, leggera leggera, è in PVC. Tu vai all'agroindustriale, come si chiama, quello che vende i tubi, ti recuperi e te la fai tu. Sì, ma aspetta, ti voglio dire una cosa veloce. Com'è l'attacco al tubo? A cravatte? Sì, c'è le cravatte che si attaccano lateralmente, non si incastra nel tubo, si attacca a alcuni morsini. E la cravatta è come la nostra, buono, buono, la prendo in considerazione, ma si trova in commercio, sì. Sì, io mi ero arrivata 2 giorni fa. Va bene, questa antenna, va bene, come si chiama? Gain, scritto Gain con la N finale, se no sembra Game Master, antenna gay, rosa magari. Infatti ho detto gay, è scritto Gain Master. Esatto, io dico Gain Master. Ah, ok, adesso la cerco, voglio vedere com'è. Ah, Eugenio, guarda che ci sono due modelli, uno è mezz'onda e uno è 5 ottavi o 6 ottavi o quanto è. Quella più lunga è da prendere, se non sei in zona troppo ventosa. Sì, adesso la cerco. Ah, poi avevo sentito, ascoltando sul 10, che peraltro Giulio ne aveva fatta una artigianalmente che era quasi perfetta, cioè sembrava la vera Game Master originale, capito? Perché di per sé il progetto è abbastanza semplice, poi basta avere i materiali giusti e te la puoi riprodurre, risparmiando anche un saccaccio di soldi. Ok, dai, riprendete un attimino che comincio qua in cucina a operare, dai. A da voi, ciao. Ehi, Amaro, non è così semplice, Marco, come tu dici. Bisogna saper fare l'avvolgimento e tutto quanto. Ci vuole il materiale per fare l'avvolgimento e tutto quanto. Non è che sia così semplice, però Giulio l'ha copiata da quella originale, perché Giulio aveva quella originale prima, poi un giorno è andato il nipote e nella... nel senso che nella chiesta e non ha potuto fare a meno di dargliela, perché il nipote è avuto la carbonia, capito? E nella data, però prima di dargliela, guarda le misure, tutto quanto, e se l'ha fatta uguale, capito? Uguale, addirittura anche il capo rosso nell'avvolgimento. Non ce l'aveva rosso, ma lui avesse il nastro rosso per assomigliarsi a quello originale. Poi l'ha verniciata di bianco come la Game Master e precisa identica, solo che secondo me va più bene quella che ha fatto il giro di quella originale, secondo me. Sirio Game Master c'ha la carica rossa sotto, così esatto, la 580 OG, non pigliare l'altra, è bella, è lunga lunga, bella bella, e va anche un bel bene. È una bella altezza. Ce l'aveva anche Sandro, si chiama Sandro Tigre, ce l'aveva portato Torres, solo che lo sai cosa gli ha fatto? L'ha legato, gli ha ancorato il centrale, quindi cosa è successo? Con l'antenna lavora come la canna da pesca quando prende un pesce grosso, si piega un becco quando c'è il vento, ma non si sfascia, se tu riblocchi la punta fa forza nel centro e alla fine gliela ha fatta spaccare. Gliel'ha rotta il vento. L'ha legato la punta, capito? Sicuramente non c'era sfogo, non c'aveva. Quella canna deve lavorare muovendosi, è come la canna da pesca, no? Quando tu prendi un pesce grosso che si piega quanto, ma non si blocca, se è buona la canna da pesca, perché una volta ne ho comprata una di canna da pesca, col primo lancio che faccio mi si è troncata in due. Sapendo dove la giudice non ci credeva, cazzo, non è possibile, mi dice si tutto sopra, questo e quell'altro, ma non c'è là, c'è la... il cugino di mia moglie con me pescava, era tutto entusiasta di provarla questa canna, mi si è truccata in due. Una curiosità, ma le canne da pesca, quelle normali, no, non in carbonio, la fibra di cui sono composte, cos'è? Fenolico, quella marroncina, come si chiama? Fenolico. Ma è fibra di vetro. Fibra di vetro sempre. Ma mi sto confondendo con qualcosa, boh. Con i circuiti stampati, quelli marroncini, forse mi sto confondendo. Ci sono alcune che non si possono usare perché attirano i temporali. Quello in carbonio attirano i temporali. Quando pioveva infatti usavo l'altra con le fibre di vetro, perché il carbonio attira i temporali. Ma ne avevo diverse di canne, quindi guardavo in base alla giornata. Ma ne porto sempre una in più quando vado a pescare, di modo che se si rompe qualcosa, ciò ricambia anche appresso, pezzi di mulinello, di tutti di più. Infatti quella cosa pesa un troppo, di San Bossa. Hai trovato differenza quando da quella che ho irradiato a questa qua, come guadagno di segnali? A voglia. Due segnali in più arrivo, per dire a Massimiliano ne avevo due segnali in più di prima. A Marco lo stesso ne avevo più forte di prima. Vabbè, Marco, dici lo Allora, avevo dato un'occhiata quando ero all'ascolto, sai cos'è, con quel 3009 sono, te l'ho detto, decimillimetriche le differenze dello smitter dopo un certo livello, no? E quindi non posso darti un controllo affidabile. Se avessi avuto il 140 ancora ti avrei dato un controllo migliore. Comunque in base alle zone puoi anche incrementare abbastanza, come infatti hai avuto modo di verificare. Ascolta, una cosa che mi interessava a me, siccome non avevamo parlato ancora direttamente, la rumorosità, ti sei accorto se è diminuita nell'ascolto? Cioè il rumore di fondo, il QRM, è diminuito perché ha la fama di essere più silenziosa come antenna. Sì, sì, è più silenzioso il QRM, è vero. NDX è un bijou quella mi. Ui, aspetta in primavera mi. C'è anche la CD 8827 quella con i radiali. Quella è quella che c'ha Marco Scorpio, mi pare. Quella che ha preso Marco. Sì, è come la Mantova più o meno quella lì, dai. È tipo la Mantova. Però questa qua va benissimo. A me mi sta dando soddisfazione, ce l'ho da poco, però le prove che ho fatto mi ha soddisfatto. Sì, no, voglio capire la ricezione, perché la ricezione dell'antenna è data dai radiali, così è. Voglio capire la ricezione, da cosa, come fa a recuperarla. Tutta la questione di non lo so, roba tecnica, la bobina, non lo so, dalla bobina l'hanno, penso che abbiamo fatto più giri di campo, cosa ne so, qualche cosa c'è, però riceve benissimo. Guarda, ho ricevuto un nuovo portatile da Viale Trento, Santiago Nove. Oh già, perché non l'hai vista montarla, è un polo verticale. Pratica Eugenio, anziché essere la polarizzazione orizzontale, un dipolo, quello lì è un dipolo 5 ottavi a polarizzazione verticale, quindi irradia verticalmente su tutti e quattro i lati, è un filo interno bobinato con un condensatore, come fai un dipolo, ci metti il malo, lì ci hanno messo un condensatore, la stessa cosa, è un'ottima antenna Eugenio. No, mi piace, anche perché, ti ripeto, io ho il problema delle cornacchie che si attaccano ai radiali e mi scagazzano tutto. Poi sto uscendo di testa. E con quella risolvi il problema. Gianni è andato su quella proprio per risolvere il problema delle cornacchie, capito? Io mi sto ascoltando, ma non riesco a fare né seduto né in piedi. Vabbè, vai. Comunque è un dipolo, è un filo bobinato con un condensatore messo dentro una canale IPVC e posizionato verticalmente con una chiusura praticamente in punta alla misura che l'azienda l'ha fatto qui. C'è un dipolo a tutti gli effetti verticali, è un'ottima antenna, funziona molto bene. Riprendi già. E praticamente chi lavora è il capo che c'è dentro, l'esterno è solo per riservare il capo, capito? Per tenerlo dritto e per riservarlo, tutto lì, perché poi quello che lavora è il capo che c'è all'interno. Sì, ho capito, no, è bella, la prossima mi prendo questa, sì, senza radiali, senza niente, praticamente risolvo anche il problema del cornacchio. Te l'ho preso più di già, perché poi si aumenta, questa antenna qua arrivava a 200 euro prima, si aumenta poi la paghi di più, invece lui ce l'hai già, quando dicevi, intanto non ti occupa molto spazio, ti trovo uno scatolone lungo, te la metti da una parte, quando dicevi di avviare. No, vabbè, proprio di spazio non ne ho. E poi, a quanto ho capito, non hanno inventato niente, cioè loro hanno brevettato questo sistema, ma il dipolo verticale si conosce dalla notte dei tempi, no? Forse hanno brevettato quel tipo di, non so, qualcosa arrotolato lì, che fa da condensatore, boh. Alla fine, infatti se la facevano pagare veramente troppo, adesso si sono un po' ridimensionati, altrimenti non ne vendevano di quell'antenna a quel prezzo là, 190 euro, ma non ti innandi, più la spedizione ovviamente. Io l'ho pagata a 170 con la spedizione. 159 con 148 io, 170 con la spedizione. Già è un giorno che esiste con l'antenna. Già è un giorno che esiste con l'antenna. Oh, io. 10 per te. Questo è una matassa di filo, la frottoli, la fa entrare nelle sue canalette, inizia a tirare fino a quando non arrivi alla misura giusta per poterla bloccare in punta, e lì diventa un bipolo verticale. Non è altro, è il brevetto che ti stanno facendo pagare, perché è fatta veramente molto bene, è fatta molto bene, però esiste, hanno brevettato questa canalizzazione verticale, l'hanno bobinata, le hanno messo questo condensatore, l'hanno chiamata Game Master e va bene così, e se la fanno pagare, però esiste da tanti anni. I puli verticali li usavamo per problemi di spazio, li usavano i rianimatori prima di me sicuramente per problemi di spazio, quindi esiste, questa è stata appunto calcolata per la 27, è fatta molto bene, perché è fatta bene. Io personalmente, anziché il PVC, Marco, avrei usato il polietilene. Polietilene molto, molto più robusto, in modo che non fletta molto, perché mentre la montata rimane sempre leggermente storta perché è molto lunga. Il polietilene, magari un PM16, ben fatto, e avrei risolto il problema, sarebbe stata un'antenna eterna a tutto il resto del mondo, perché il PVC sapete benissimo che tra il caldo e il freddo, prendendo molto caldo, come tutte le canalette esterne, si spaccano, si indeboliscono, mentre il polietilene, soprattutto il PN16, non lo fa questo tipo di cosa, capite? Vabbè, comunque, è nata così, e già va bene così. Voglio dire oggi, Bocanino, l'urrito, la busciacca, la ramazza che te ne varia. Claudio, ma allora la Sirio cosa avrebbe brevettato? Perché parlavano di un brevetto. Se esiste il dipolo verticale, cosa hanno brevettato loro? Cosa ha brevettato la Sirio secondo te? Cosa ha dato il 50% della tecnica che ha usufruito negli anni? È un'antenna che si conosce tranquillamente, anche Gianfranco ne parlava l'altro giorno. Solo che, sai, vai a comprarti un paio di pantaloni, no? Che hai usato 20 anni fa, però si chiamavano Claudio, adesso li hanno rifatti uguali, precisi identici, che si chiamano Marco, ma sono stati già usati e brevettati 20 anni fa, capito? Eia. Dimmi, dai che sto trafficando in cucina, ditemi mi assento qui ragazzi. Non so se tu sia andato a vedere, ma io cercando ne ho trovato una della Sigma uguale, costa 98 euro, però non mi sono fidato, perché tutti parlavano della Game Master, questa della Sigma non la conosceva nessuno qua e quindi non l'ho presa. Costava 98 euro, uguale. 5 ottavi, stessa misura, stessa... Vabbè, la Game Master ha fatto molta pubblicità, no? Magari su riviste, così, su internet, e ne ha fatto praticamente un monumento, sì, è un'ottima antenna, ma tutta roba preesistente, dai, progetti preesistenti. Ok, a da voi, dai, ci sentiamo, ciao, buon proseguimento. Ciao, avanti oggi. È lunga, se ti metti il 360, così? Sì, più un poco più di 7 metri. È un po' più lunga, però più lunga della manta, vai oggi. Sì, Gianni, però se sei andato a leggere le caratteristiche di quell'antenna, se leggi lo spessore del PVC, è leggermente più grosso, perché lì si sono un po' persi, capito, in quella che hai tu. Ti ripeto, se avessero fatto un tipo di PVC un po' più grosso, che poi non esiste, quella è la misura del PVC esterno, oppure l'avrebbero fatta in polietilene, sarebbe stata l'ottima antenna. Quella della Sigma che hai visto tu, cioè, mi sembra qualche millimetro quadro rispetto al PVC che ha fatto la Game Master, leggermente, ma adesso non mi ricordo quanto era, però 1,5, 1,3, però può essere anche importante. L'estetica è quella, le misurazioni sono quelle, no? Ripeto, è come quando prendiamo a volte delle cose, no? Uno è marcato una parte, l'altro è marcato un'altra, però il risultato è quello, già non è che cambia niente. La Game Master, come dice Marco, ha fatto tanta pubblicità e quindi tutti si sono praticamente illusi che fa assoluto, ma se tu vai a prenderne una della SIG, ma una di un'altra marca, sempre quella. È come noi, no? Le nostre antenne, noi siamo fissati ad animatori, prendiamo le L500, le antenne bibande verticali, che io ce l'ho uguale a quella, lì. Io ce l'ho, però per essere in PVC è un altro tipo di materiale, un po' più grosso, molto resistente al vento. All'interno, anziché esserci il filo, ci sono delle barre di rame che vanno congiunte una assieme all'altra con dei morsettini così come quella, e poi c'è il condensatore sotto, per le due, per le una, che è simile a quella, capito? Sì, ma noi siamo fissati che la Diamond è la migliore in assoluto, ma ci possono essere tante antenne di diversa marca che sono, io ho avuto la Comet 500 ed era uguale alla Diamond, costava qualcosa in meno, ma mi è durata tanti tanti anni, tantissimi anni, poi l'avevo tolta e avevo comprato la 510, ma per questioni di usura, non è che si è rotta o non funzionava, capito? Già dovrei presa già ne è caduto, prima che parlo io si addormenta. No, ci sono Claudio, stavo guardando un messaggio che mi hanno mandato. La chi l'hai presa l'antenna? Sì, Togino, ti ha chiesto, a chi l'hai presa l'antenna? Media Globe. Media Globe. Media Globe. Hai sul sito di Media Globe, oggi vedi un pochino. Se ti interessa ti ripeto, è una semplicissima antenna, semplicissima, guarda. Ci vuole più a vulcanizzarla che a piazzarla, veramente. È un'ottima antenna, ti ripeto, ribadisco per me. Per me avrei lavorato più sulla caratteristica del PVC, perché la struttura è quella che comanda, poi il resto è un filo che cammina all'interno, invece. Però vabbè, per chi ha problemi di cornacchie, io non ho problemi di cornacchie, ma anche se ci sono non è vero, le antenne sono tutte a posto. Va bene, dai, sono qua comunque, riprendete. Claudio, comunque il PVC è un materiale altamente resistente, lo usano anche adesso per fare le tubazioni dell'acqua, fate un conto. Ma vuoi insegnare a me il mio mestiere, Gianni? PVC, di quale PVC stai parlando? Quelle sono semplici, semplicissime, ti aggiungo. Canalette elettriche, canalette dove tu le metti esterne e ci metti i fili dentro. Ok, canalette, quelle sono canalette non di acqua. Non confondere il PVC col polietilene. Io non ne ho mai visto di impianti d'acqua fatti in PVC, in polietilene, PN16, PN20, PN22, PN32. Non confondere il PVC col polietilene. Se quell'antenna fosse stata in polietilene, sarebbe l'antenna, penso, la numero uno al mondo. Il PVC prima o poi crolla, perché non ha le caratteristiche del polietilene. E crolliamo noi prima o poi, ogni cosa si invecchia, si guasta e cosa. Non me ne poco di problemi. Quando si fa c'è la trappa evoluta. È la stessa cosa ti dico, però io sto parlando della resistenza che potevano, del lavoro che potevano fare meglio di quello. Capito? Anziché usare il PVC, usare il polietilene. È molto più robusto del PVC, no? I PVC sono canalette per impianti elettrici, non ci passa niente dentro, qua ci passa cavi elettrici. Il polietilene ci passa acqua ad alta pressione. È un altro tipo di materiale. Vabbè, comunque. Fino a quando funziona, lasciala lì, quando non funziona, magari un colpo ne cade a terra e si mette nuovo. Io, ripeto, ribadisco, sono mantovano e quando ne cade questa ne metterò un'altra nuova di Mantova, a costo di usarla, di ordinarla dagli Stati Uniti d'America. Vai oggi, riprendi, dai, un attimino, mi assento. Ci sono anche in Italia, c'è la 1 e la 5. E su roba di cosa che c'è di questo sito, lo sto guardando. C'è anche il QF450. Cosa c'è? Il QF450. Sì, grandissima radio. Grandissima radio. Mi dia se ti piace. Io l'ho avuta e non mi piace niente. Una radio non mi piace niente. Preferisco il 440 e il 430. Non so che ci sono Gianni, ma non ne ho io problemi, no. Ce ne camionisti che vanno sui continenti e non voglio essere. aveva l'estate già andata in basso, la pulisco e le diamo una stamattina, una pulita, ma è nuova, nuova, funziona perfettamente. Il radiale non li ho ancora gli aggiunti. Piglia a Dio, piglia a Dio, sei da l'altra lì, sì, grazie, sei da l'altra lì, guarda ne ho, io ho due 440, un 430, un 140 e un 70, se ti interessano, dimmi quale vuoi. Cazzo ridi, ridi tu, io ce li ho, ho preso tutto un blocco di un signore che ha dismesso l'attività e quindi ne ho le radio dentro l'armadio, se ti interessano. Questo è il mio 440, poi ne ho un altro, poi c'è il 430, c'è il 140, c'è il 680, c'ho 5, 6, 7, MC60 se ti possono interessare. Quanti ne vuoi ho di materiale? Che tu non vuoi spendere niente, vuoi tutto il regalo, cazzo. E ma io subito ne ho. E vai, te li fai, li prendi alla banca se non ce li hai. Non ce l'ho, ne ho a casa, vado in banca e li prendo. E infatti non c'è neanche in banca. E vabbè, cambiamo discorso. Se no potrebbe mandarti a fare in quel paese, li prendi già. Sempre bene di miseria che sei un genio. Allora, sì, non è certo un'antenna che sta venendo oggi, me la giubilea da io che non so cosa valere. Ma è non è compito di antenna, è compito dell'apparato. Ma perché a Rubone ha speso, se vai a comprare un apparato del genere spendi 50 euro più di Gianni, che ti piace 250 euro Gianni? Gianni ha fatto un impianto nuovo, ma sai se lo dice impianto nuovo, proprio di sala pianta, tolto tutto quello vecchio, pali, cavo, borsettiere, borsetti, tiranti, antenna, tutto, una bugata, tutto è posto, tutto nuovo, tutto nuovo, ha speso 250 euro, tu le spendi 100 in più e ti compri una radio. Claudio, c'è un 450, un TS 450 della Kenwood. Quanto ci vale, meno male? Per lei, me, ma lascia perdere. Ne ho avuto 3 euro di 4,50, non mi piace neanche come esce. Ma la radio ci vale quanto è 4,30, 400 euro. Io sono delle TQZ. Vedi, la TVC, infatti. 400 euro il suo prezzo, è un semidigitale, non serve a nulla, non mi piace. È un ottimo vicetrasmettitore per le HF, ottimo, qualità prezzo diciamo. Hai speso quello usi. Ma per la 27 non mi piace. Non c'è una modulazione troppo impastata, non si riesce mai a regolarla, no. E un'altra guba analogico, Gianni. Lo so. So che gli analogici stanno andando a farsi fottere tutti quanti, perché meno male hanno fatto i 6 anni di vita quelli che ci sono e i componenti sono usurati. Perché il 450 cosa pensi che sia ultimo uscito? Anche il 450 è un vintage. Cosa è uscito neanche un anno dopo il 440, quindi non è quello il problema. Io sono vita e miracoli dei Kenwood, quindi il 450 è come il 440. Non cambia niente, c'è lo smitter a LED, allora grandissima gaggata, a me non mi piace. Oh, Natali, avanti, mi c'è Natali, non ti ho sentito Natali. Riprendi con Gianni, dai. Riprendi con Gianni, quella telefonata là l'ho rifatta, ma niente da fare. Adesso provo l'ora di cena, poi se lo trovo, non ti ha capito. Va bene. Saluto a tutti, da buona tesoretta. Ciao Natali, mi hai sentito, va. Rimani, fammi schiantare. Ciao Natali, se mi senti, io non ti sento, Perché Natalino è piccolo e nero. Ma ce l'ho grosso. Ehi, te l'ho detto, tu sai cosa devi fare, se non la capiscono. Ti metti un microfono da tavolo, metti il mic gain a zero, premi la portante, la blocchi e te ne esci. Se sei, te la lasciala fuori, poi torni. Senti le pressioni. Se ti dicono qualcosa, guarda che sto tornando adesso io, non ero a casa, cosa vuole? No, non sono io. È il fatto che uno di quelli c'ha l'apparato, l'ascolta, capito? Ah, pure. E allora? Te l'ho detto che quella la cognata, già te l'avevo detto. Ok. Vabbè, non ne parliamo qua, dai. Riprendete voi, dai, che l'acqua bolle. Riprendi già, riprendi. No, sono andato a vedere Media Globe, stavo guardando. No, no, vedo solo antenne radioamatoriali oggi. Come già? Che ho trovato solo le antenne radioamatoriali da Media Globe adesso. Adesso vado a vedere se si vede specificatamente quella. Anch'io ho trovato quelle radioamatoriali. Quella come la tua non l'ho trovata. Allora scrivi venditori antenna Gain Master. Io ho trovato così e poi sono andato su Media Globe e ho telefonato perché io la volevo in contrassegno e non le faccio più con la carta eccetera eccetera, la mania perché tu la usa solo contrassegno, mi ha detto che me la mandava in contrassegno però dovevo pagare le spese di spedizione, invece con la carta non paghi nulla di spese di spedizione, la paghi 148 euro. Ma scusa, è tutto protetto adesso. Ti frega. Vabbè, quella lì se tu ce l'hai, era quella, non lo so se ce l'ha quel pagamento con la PayPal. Comunque, a me me l'ha mandato in contrassegno, ho preferito pagare il contrassegno piuttosto che farmi fregare. No, non mi fido più, 200 euro ci ho già, ma non rubata. Natalino, ripeti. Natalino. Rimango in ascolto, io se no qua disturbo troppo. C'è quell'uomo che se vede la televisione, poverino, là. E tu non hai diritto di rodurare, vabbè. Ho capito. Claudio, oggi l'antenna era bella dritta perché il vento tirava dalla parte contraria dove era storta e la faceva diventare dritta. Dritta, dritta, dritta, non si piegava mai. Claudio, non c'è. Ha chiuso. Ah, chiuso. Hai trovato Eugenio? Allora, ne ho trovato le sigle, le ho trovate. Adesso guarda quella che costa di meno, io l'ho pagata 148 euro, più le spese di spedizione mi è venuta a 170. Ah, 129 euro e 18 centesimi, allora. Senza spese di spedizione. Antenna base, ci risiedio del matto. 5 ottavi deve essere. Guarda bene quello, se è 5 ottavi o mezz'onda, se è mezz'onda rende di meno, la 5 ottavi rende di più. E adesso sto guardando se mi dà le caratteristiche. Per forza dai, 5 ottavi deve essere. La, se c'è un prezzo basso è perché è mezz'onda, se no cosa un bene. Devi mettere le mani in busciacca e comparare la vita. È un mezzo volta qua, è un mezzo. Qui è il costruttore della Gamemaster che sta entrando, qui, questo è il costruttore. Mamma mia, Minumi, buonasera. Ciao, oggi. No, non il costruttore. Il copiatore. Il costruttore era proprio in un altro tempo fa. Solo che è morto ormai. Tu l'hai costruita, no, l'antenna, anche se l'hai copiata l'hai sempre costruita, qui c'è il costruttore. Non è che è nata così da niente, l'hai costruita. No, io sono il copiatore del progetto, ma non il costruttore. Il costruttore non va bene, non è corretto dire così. Costruttore del progetto. E vabbè, fatta sentire l'antenna. Chiama come fu. E oggi hai trovato? No, vabbè, nel caso la prendo dove l'hai presa, dove l'hai presa tu. Ma perché l'hai cambiata? Se la rompa l'altra. Allora l'altra andava lo stesso, già anche se dovevano rompere la diaria le cornacchie, malgrado li avessi legati con la lenta per gruppi. Ma hanno tagliato anche la lenta dei gruppi, fatti un botto, come spiccava il volo. Gli avevo messo i radiali, quelli in alluminio pieno, non di quelli buttino, di quello pieno. Beh, sono riusciti lo stesso a troncare. E dovevo rifare i radiali, però lo sai cos'è? Che ci volevano le boccole nuove perché c'erano allargati i buchi, eccetera. Poi gli avevo messo i muloni passati, questi nuovi che avevo fatto i radiali perché ci giocavano e quindi gli avevo messo i muloni passati per bloccare. avrei dovuto modificare, eccetera. E Claudio mi ha detto che c'è un piantone lui di Mantova 1. E ha detto vabbè, però dice te lo devo pulire perché lo devo ripristinare in tutto, perché se no è un po', diciamo, andato. Là ci ha piantato, è stato giorni e giorni facendo, quando l'abbiamo piantata non funzionava. L'acqua al massimo di stazionare, non regolava con la molla, niente, proprio era partito. Sicuramente c'era il filo interno che era interrotto, capito? E quindi cosa ho detto? Visto di cenare, mi piace volare, no, lasciamo perdere, facciamo una cosa, le pulivo tutto l'uomo e basta. Che facciamo prima, non stiamo a piantare, a piantare, a fare. Ma mettiamo l'uomo direttamente bu- ho capito. E quindi ti hanno rubato le cornacchie, praticamente. E allora, ma le tagliate tre volte irradiate, tre volte. Prima mi hanno rotto gli originali, poi ho messo quelli vuoti, l'alluminio, li ho comprati da piccoli, li ho fatti a misura, tutto quanto, fatti bene, li ho messo anche il pilolino in punta, li ho comprati i pilolini per metterli in punta, li ho tutti quanti con la caldo, li ho attaccati prima giù e poi li ho portati su. Niente, l'ho fatta tutta bene, usciva bene, c'aveva un euro di stazionare, niente, proprio nulla. Dopo tanti anni la mia c'aveva sempre poche stazionari, poi la torte radiali ed era con il sesto radiale andava lo stesso bene, ne aveva un euro e due al massimo di stazionari, e quindi andava bene lo stesso. Solo che poi abbiamo opzionato per cambiare, perché Claudio aveva il mozzo con tutti i radiali, aveva buscato, però se non sapendo che lui aveva il filo interrotto all'interno. Ah, io sto uscendo di testa perché mi stavo sporcando tutto il terrazzo, è un casino, mi stavo sporcando tutto il terrazzo. E poi quest'antenna va bene, però mi stavo sporcando tutto il terrazzo. Io una soluzione ce l'ho. Se ti vuoi comprare una carabina ce l'ho io. Di quello non c'è problema, già so come da attrezzare, basta le carabine, però è un casino, non fa. Cazzo, ma vedere se cosa devi fare. E poi una curaccia russa, una volta che mi metto la cornacchia morta lo si cava. Vabbè, ma poi quando si consuma la cornacchia, tu ritorna. Ne tiri un'altra, e la vuole in fretta. Giulio, non è così? Beh, certo. Beh, infatti, pensandoci bene, proprio nel punto dove c'era l'antenna, quando c'erano voi, era tutto sporco dai piccioni. Perché si posavano sui radiali e quando erano lì facevano proprio comodo, capito? Allora invece è tutto pulito. Allora si può dare più. Vai, che hai fatto prima del Lillo comprando quella già, a parte il discorso piaccia o non piaccia, però secondo me hai fatto prima del Lillo. Prima di tutto perché non ci fermo più i piccioni o le volatili sui ragazzi. Secondo perché è leggerissima. Non fruscia, si fruscia da tutti, si può saper dire che fischia molto quando c'è il vento. Magari c'è quello che non lo sente e allora va anche bene. Però prima o poi le ragazzi calano, si sa, è ovvio. Magari calano dopo vent'anni, questo sì, d'accordo, quello che vuoi. Dipende da dove sei e da quanti volatili si posano sopra i radiali. Anche quello c'è da considerare. Se sei in una zona dove non ce ne sono, allora può durare di più, questo senz'altro. Però, ripeto, per me è fatto bene, poi, tanto più che funziona bene quando la mando qua. E può fare anche meglio. Avanti oggi. Sono accorto, sono sugli aloni qua, funziona probabilmente bene l'antenna. Io non sapevo che esistesse l'antenna, perlomeno la 27, quella senza radiale, non lo sapevo, se no a posto di questa che ho mi sarei preso quella. E appunto, però lui era tito base. Quando io lo dicevo, Roma, o Firenze, o Bologna. Allora mi bisogna di edizione fra poco. Vai, hai fatto bene. Già, hai fatto benissimo. E poi c'è una cosa da dire. Da meno nell'occhio, da allo stesso tempo la gente quando vede questa cosa non. Diciamo che è più coraggiosa. E non l'ho fiscato nei confronti del baracchino. E dunque, quando vedi, non è del baracchino quello lì che sa che cosa è. Capi, sempre se quella del baracchino non la può vedere nessuno, la può vedere. Anche, tu pensi che a me ne avevano mandato il controllo quando sono venuto qua, il primo anno che sono venuto a abitare in questa casa, mi hanno mandato il controllo. Dopo 40 anni che io di frequenza, mi hanno mandato il controllo, mi hanno mandato. Chissà qualche imbecille qui del vicinato, senza nemmeno usare ancora l'orario a macchina della strada, mi avrebbero mandato il controllo. Però si sono rimasti male perché io ho sempre avuto la concessione, dunque no, a Giuseppe Barato, non avevo niente da dire. Però, nemmeno a me personalmente, esteticamente non mi piace vedere questa cosa così ingombrante sul tetto. Se non mi avrei fatto l'esame della radioamatoria avrei messo tutte le antenne di questo mondo con la passione che io ho per la radio, figurati. Ma siccome è un pasticcio con tutti gli antenne, tutto l'ante a casa radia, poi per non continuare poi, oggi, la corrente elettrostatica, anche lì, basta, hai giù tutto, riprendi. Sì, la prossima è quella, no, mi ha stupito il segnalone, poi anch'io da lui adesso li arrivo più forte. Se 9,5 qua ci arrivi, da 9 a picchi positivi a 9,5. Quindi funziona bene, funziona molto bene. E a voglia se funziona. E prima ti arrivo, mi arrivo di Santiago 7 a me. Se vedi, evidentemente c'è qualcosa, vuol dire che funziona bene. Io c'ho sempre la stessa antenna mia oggi, evidentemente hai fatto qualcosa tu, perché anche qua da quasi 8 si sta arrivando più di 9. Adesso l'ho fatto, sono anche spostata di posto, guarda. 11 metri più avanti l'ho spostato. Evidentemente c'è qua più vasco, non so. Questo arriva molto più forte. Ciao Giulio. Ti sto ascoltando ma non riesco a stare appoggiato, capito? Fa male la schiena, Giulio, vai, continuate. Mamma mia, bella compagnia, vai, oggi ciao qua, bella compagnia, ogni tanto ti pesca a te, questa stupia, ma è proprio vero, ogni tanto venne una. Così è, sentito lei Gianni cosa ha detto adesso Eugenio, l'ha spostata solamente, non l'ha sollevata, confermi oggi, ne abbiamo parlato anche ieri mi sembra, che basta spostare un metro anche, da dove è posizionata, ecco, può cambiare totalmente il sistema di trasmissione, o meglio il valore della trasmissione e anche della ricezione. E oggi lei è spostata ma non l'hai sollevata di più. No, negativo, non so anche spostata, non l'ho sollevata. Mi pare sempre quello, non so anche spostata. Sentito Gianni, mi sembra che l'abbiamo parlato ieri di questo discorso, te l'avevo accennato ieri o avanti ieri, se ricordo bene, tu ti ricordi? Ma io già lo so, Giulio, anche col PMR se ti sposti puoi sentire le persone, se ti sposti di un millimetro solo lo intendi più, è la stessa cosa. Dipende, se trovo il varco che si vedono le antenne, è naturale che arrivi più forte. Però quando tu hai un palazzo alto, è diversa la situazione. Perché tu la lasci in un punto, l'antenna, e prende tutto lo stesso, perché il palazzo è alto e arriva da tutte le parti ugualmente, il radio è da tutte le parti. Se è una casa bassa è una cosa diversa, perché può trovare un ostacolo, una cosa, e non irradia. Montagne non ce l'hai davanti a casa, qui. Non ho mai fatto storia nel condominio, il condominio non ho mai fatto storia per l'antenna, già. Per questa qua? No, per l'antenna dall'inizio. condominio mi hanno fatto la lettera, eccetera, eccetera. Io gli ho rifatto la lettera contraria, mi hanno mandato un tecnico per controllare l'antenna, e il tecnico si è accorto che era l'antenna dell'antivirgio che voleva cambiare. È venuto a casa, ha visto il vano del baracchino che ci fu io, gli ho fatto vedere il vano, ha detto, ciao, non è possibile che sia questo. È salito su, ha toccato l'antenna, lui ne fa due pizze, dice, ecco che cos'è, l'antenna vuole cambiare. Ha fatto il rapportino, l'ha presentato al condominio e mi hanno mandato anche di scuse, capito? E ha detto che ha cambiato l'antenna, e dal giorno niente più scuse. No, negativo. E adesso messo la storia perché è cambiato, sei salito, no? No, no, no. Io ho fatto il furbo, mi sono fatto presentare la chiave una volta dicendo che dovevo controllare l'antenna del televisore e poi mi sono fatto il doppione io, con l'orgoglio sano senza chiedere le permessioni nulla, comunque gli ho detto questa volta, gli ho detto che dovevo andare a piazzare l'antenna, che per correttezza glielo stavo dicendo, dice no, non c'è nessun problema, l'interessante è che lasciate tutto com'è, che non fate casino, ecco, praticamente la monda si è rotta quanta ritirata, il nastro vecchio, il vulcanizzato, tutta la roba che abbiamo tolto, l'ho messa in una busta e ce l'ho buttata. Forse ho capito anche dove abiti, c'è un palazzo alto, c'è il cortile sotto più o meno, vicino dei parcheggi, là. Parcheggi, no. È un palazzo alto, sì, c'ha 6 piani, c'ha 5 piani più l'attico. Però parcheggi, mi amore se abito, io non ho niente da nascondere. Cosa già, cos'è? Perché io non ho niente da nascondere, abito in via Moles. No, allora non è quello. Perché c'è un palazzo venendo fuori dalla come si dice? Dalla strada che porta a San Camillo, dai. Fai il chilometro con la strada lunga dritta. C'è quell'incrocio, via degli astronauti, credo. C'è un palazzo alto con un cortile sotto, dei parcheggi, dai. Cortile con dei parcheggi. Ah, non ho capito che se c'è la sassa di due tu stai dicendo. No, quello è un radioamatore, Non c'entra nulla con me. No, io non abito a sassa di due. Ce n'è una che dall'altra parte, che non è mia lo stesso, io abito più su che di lì. E vabbè, dietro via Baldetta comunque rimane, là, c'è sempre via Baldetta. Sì, ho capito. Va bene signori, io ne approfitto, vi devo lasciare, dai. Adesso devo fare cosa, se lo siete meglio. Ci sentiamo domani, ciao ragazzi, ciao e buon proseguo. Ci sentiamo domani se coincide, ciao. Ciao Eugenio, ben sentito, là, finalmente ti ascolto bene. Buona serata, buona continuazione, avanti. Ciao Eugenio, torni bene, alle prossime. Vabbè, sì, beh certo, adesso, no, io lo dicevo, sentiamo 7:30 lo dicevo a Eugenio, ma la radio è a bomba, la radio è a bomba, è fortissima, molto molto bene, solo che quando magari è in porto così, col portatile o in macchina, non lo so, allora incomincia a essere difficoltoso. Però da casa problemi non ve ne so, mi ascolto benissimo, non bene, benissimo. Come posso ascoltare te? Con la differenza che il segnale è più debole, però la radio è fortissima ugualmente. Va bene, va. E allora Claudio va la compagnia stasera, mamma mia. E non ti ha preso niente qua. Oh, sarà sbagliata. E anche io sono così, bisogna di gridi. Ho preso una pastiglia di antidolorifico. Non ho fatto nulla. Stavo a fare un po' di roba a casa, non avevo voglia, l'ho rimandata tutta domani perché proprio non ne ho voglia, non mi sento di farlo. Dolori fortissimi, non riesco a stare. Se non mi chiamano a casa, guarda, sempre assente. Quelli sono tutti gli acciacchi che uno giorno per giorno si coltiva quando sta lavorandomi al freddo, alle intemperie, agli sforzi, per carità. Purtroppo così, la vita del lavoratore prima o poi ti manda conto. Prima o poi ti arriva conto, sanno. Purtroppo è così già. Quindi sono tutti gli sforzi che ti ha preso, perché ha fatto magari la mattina presto andando a freddo, il ghiaccio, a tirare tubia o aprire i rubinetti. Purtroppo la vita del lavoratore è così. Ma speriamo che faccia subito. E così è già, e allora, ti sei collegata su vicino all'antenna ieri per controllare se il vento te l'ha piegato? Sono sceso col cane, quando c'era il vento, l'ho guardata ed era bella vita. Praticamente il vento là, normalmente resta storto, il vento batteva nel senso contrario e te la drizzava, la faceva diventare dritta dritta, non si è pigiata nulla, proprio, cioè l'ho guardata perché sto sempre guardando una cosa che sì, quando la faccio non sono tranquillo. Devo addrizzare questo un po' perché mi ha ridotto. L'abbiamo piantata un po' storta, non tanto, però un po' è storta. Si potrebbe fare meglio, bisogna tirare due tiranti e basta. Vabbè, con quello sono cose passabili, non è un problema quello, figurati. Quello già non è un problema, ma comunque se è una cosa che si può fare, molto un tirante e lo tiri di più, certo, quello sì. E la genisce anche di Gianni. E lo si va a tirare il nero, il materiale, tu me l'hai detto. Ma ti consuma? Non lo so, guarda. Pare che quello è lo stesso materiale che usano per fare le macchine. Finché abbiamo detto tutto. È solo flessibile, bombata. Ma il fatto che sia flessibile è proprio per quello che va bene. Proprio per quel motivo che va bene. E se io mi ricordo una volta, qui a Ripunti, verso Montanieri, c'era l'antenna di Giovanni Ciclone, buonanima, che lui l'aveva piazzata con un faro non abbastanza robusto e senza tiranti. Beh, una bella mattina è andata in campagna, perché aveva l'antenna in campagna qua, no? E la trombata piegata, la trombata, ad angolo la trombata. L'antenna non si era rotta, però si era piegata, per dire, no, già. Eppure era un tubo, ma purtroppo non era abbastanza forte questo tubo, resistente, e allora si era piegata al vento. Non ricordo come se fosse lui, faceva la chiamata domenica mattina, perché lui di solito andava o la sera, il sabato sera, in campagna a modulare, oppure la domenica mattina, e mi chiamava, vieni a vedere l'antenna, no, andate, come vai così piegata? Te il vento, purtroppo è così. E così già. Ma si è piegata l'antenna o il tubo? Il tubo si sarà piegato. Il tubo, si sentiva il tubo che non era molto, molto robusto, e la pegliava piegato il tubo. È rimasto attaccato, la tenda è rimasta attaccata, lo stesso. Però era orizzontale, tutto orizzontale. All'angolo gliela fatta di lei. E cosa? A 90 gradi. Quando io sono andato a comprare i tubi per mettere questa antenna qua, a fianco c'erano dei tubi in plexiglass, ma grossi e duri, quelli dovrebbero andare bene anche come sostegno per le antenne. È vero. Infatti, è vero, sì. Però hai commesso un errore, cioè, diciamo, non ci avete pensato. Questo ne sono più che convinto. Tu hai cambiato il faro e va bene. Il faro è zingato e va bene. Sono d'accordo sempre. Il faro va bene così com'è. Però non hai sostituito i bulloni. I bulloni non devi sostituire. I dadi andavano bene anche perché quelli sono saldati e andavano bene. Però dovevi sostituire i bulloni, mettere in acciaio ossidabile. Perché col passare del tempo quelli si avviliscono, anche se sono zingati, però essendoci l'attrezzatura, la zingatura se la perde, e allora si avviliscono, e poi a smontare i bulloni è difficilissimo, o si troncano, o deve troncare un tubo, ma lasciarlo. Ha cambiato Claudio Bulloni. Ha già cambiato? Ecco. momento non ci avevo nemmeno pensato di cambiare i bullumi. Quelli va bene, anche se sono i dadi in ferro, che quelli che sono saldati al tubo, però sostituendo i bulloni, allora ho fatto sempre l'ultimo lavoro, perché intanto si possono sempre svitare. Questo te lo posso garantire, perché i bulloni, l'acciaio inossidabile, sono i bei denti, ma così si bolla meglio il mare che l'acqua salata. Avanti Luca. Sì, aia, sì, già, alla fine già non è un difetto quello, dai, già recuperabile. Lasciate che funzioni l'antenna, poi se poco stotta non le fa niente, lo so, anche lui che vuole la sua parte, ma già si sistema di nuovo, si sgancia, si tira, purtroppo è così. Diciamo che a quel punto dove c'è l'antenna non è facile lavorarci, si sgarri di poco lì e ci cadi giù e sei fritto. Lo so. C'entra nulla, quello lì dove tirare da giù non c'entra nulla, la lavora è da lì. Era da giù che dovevamo tirare, ma non è un problema, quello lo posso fare anch'io. Adesso come ci trovo un amico, glielo dico, culo sta giù e la tira, assai. Si avvisa, ma è di poco mi Luca, non è che sia assai, appena io sono bubignolo, lo sa. Comunque non c'è sfuggito nulla Giulio, abbiamo anche pitturato le staffe, anzi ho pitturato le staffe con l'alluminio liquido, capito? Tutte quante rifatte, le pitturate prima di piazzare il tubo, le ho tutte rifatte il giorno prima. Sì, ma certo, ma qualche cosa è una cosa buona. Però l'alluminio se lo finisce in breve tempo, cioè con la tinta, sarebbe stato meglio utilizzare o farlo prima, qualche giorno prima, e mettergli del catrame liquido a pennello sulle staffe, o perlomeno usare almeno la vernice olio sintetica della Sinuil, della marca Sinuil. Allora quello ti dura anni, questo te lo posso garantire, però l'alluminio va bene lo stesso, però dura di meno, molto di meno, ecco come, va bene, dai, avanti Luca. Ogni tanto si controlla se è durato poco o si rifà. Sì, ma non rimango più né grasso né nuda, Luca, mi sono sporcato il maglione nuovo, col grasso bianco, quello che c'era sull'antenna. Fatti un grasso, non ne metto più, ma almeno ci siamo tutti sporcati di grasso. A parte il fatto che il grasso non serve a niente, per me è tutto. Casomai deve mettere vasellina, deve mettere, non grasso. Cos'è? Capì, meccanica, che cos'è? Roba meccanica, ho i cuscinetti bisogno. Ma cosa grasso? Che è il grasso lo usano, il meccanico lo usa per i motori della macchina, non si vuole un grasso. Si mette vasellina, si mette, non ho grasso, cos'è? Che è e vabbè, ognuno fa quello che fa e piace. Non è possibile. Avanti Luca. No, c'è il grasso specifico per l'antenna, quello bianco, che è anche induttivo, tu forse non lo sai, ma esiste un grasso che si mette nelle antenne. Purtroppo, devi mettere roba vecchia per fare queste cose. E ho avuto sempre quel vizio di mettermi la roba nuova a fare le cose. E vabbè. La prossima volta ci penso due volte a mettermi la roba nuova. Io lo sai come ho cercato di pulirlo, ne ho messo di tutto, ne ho messo con lo sbagliatore, ne ho messo un po' di varechina nel golfo, non li vuoi sci, grattato, l'ho grattato anche con la spugna abrasiva, per tutto, non li vuoi sci. Anche la semana devo sci, è grattato, lo sai come si tuglie, con l'olio si tuglie. Ma oppure prendi un pochino di gasolio, un po' di naffa, metti anche con uno scalcetto, non metti di gasolio e poi lo lavi il golfo, vedrai che il gasolio di questo ne esce. Cosa capita? Se tu non lo raschi ti consumi anche il tessuto, poi si nota, quando è asciutto si nota. Ma non mi andavo in giro con un piano di gasolio, il gasolio è scini, guarda, una volta ce l'ha andata a mettere il pieno al furgone e non mi sono accorto che la giampera mi ha traboccato e mi ha sporcato le scarpe da tennis, nuove. sempre un viaggio di gasolio, non riesci a nemmeno così tammare. Oppure provare con la triedina, prova con la triedina e vedrai che ne esce. Però ricordati sempre questo, tutte le cose odiose, come può essere il grasso, come può essere lo smalto che si tinge a pennello, le bande varie, tutte queste cose qua, vanno sempre, ad esempio le mani, anche gli oggetti, sempre con la naffata bisogna lavarle, perché la naffata la asciuglie, e poi naturalmente devi lavare con l'acqua, è ovvio, è normale, no? Però se vuoi togliere la macchia devi utilizzare la naffata, tu mi dirai, ma la naffata macchia di più, certo che macchia di più, ma la naffata quando va ne esce, mentre invece lo grasso per le mani è infiltrato dentro, lì, e riesci più già, soprattutto se sono roba di mani, non riesci più, mai più. Avanti Luca. Ma infatti, vabbè, dai. Già, la prossima volta bisogna pensarci due volte. Infatti io non te l'ho fatto mettere di grasso nel piede, perché poi non so che si bruttiamo tutti i gatti, invece col vulcanizzante basta tagliarlo e fatelo io. Cosa? Il grasso, c'è il grasso Giulio comunque per l'antinduttivo, si chiama grasso antinduttivo e serve per le antenne, per mettere nei piedi, da tutte le parti, solo che ti manchia tutto, io ho messo quel grasso lì, grasso antinduttivo. E questo qui me l'ha detto un antennista, quindi cioè, è uno che se ne intende, non è un qua. Adesso non lo fa più, però era un CB ed era anche tecnico eccetera eccetera, ma l'ha fatto mettere lui. Detto questo è un grasso buono, antiduttivo, dove dà la continuità all'antenna, non isola solo dall'acqua, però non isola i circuiti, capito? E mi hanno fatto anche questo grasso, solo che questo grasso rimane, si secca però rimane attaccato, capito? Quando tu vai a toccare l'antenna ti brutti tutto il grasso. Allora fatti una cosa, che non si mette nel PL, non si mette nei contatti, no? Il grasso antinduttivo si mette negli elementi per non incollarsi uno all'altro, ma non nella parte elettrica, cosa si intende? Perché il materiale elettrico, essendo in rame o di ottone o di altro materiale, non se ne mette di queste cose, perché il grasso induttivo nella parte elettrica si fa il verde rame, si può fare quando c'è l'ottone, e quello si colora i fili, è peggio, cosa mi stai dicendo? Il grasso induttivo si mette nei tubi che si innestano l'uno verso l'altro, questo sì, ma non nella parte elettrica. A te te l'ha detto, ma se ne viene, te l'ha detto, io lo so, come si te l'ha detto. Però lui sta sbagliando, non è quanto si è e nemmeno come dice lui. Comunque ti devo contraddire, perché il piede l'abbiamo tolto lucido, non aveva di ossido. Quando l'abbiamo pulito con la carta era lucido. Ecco, non lo sto ricordando, non le fate niente al piede, non ho capito che non la fa niente al piede. Al piede non la fa niente, si può oscillare quando perde la cromatura, l'ottone non corrode, se non sei verniciato con la cromatura, e quello è il discorso. E vabbè, con andare dal tempo si invecchia tutto quanto, ci invecchiamo uno e si possono invecchiare loro, non è possibile. Adesso è stato, questo è normale, capito? Questo nessuno ti dice di no, ma è così, capita. Avanti Luca. Tutte le cose si invecchiano, vabbè, ma è meglio che se la fai come si fa sempre, con i vulcanizzanti, ci metti l'antisolante, poi già deve essere fatta bene, altrimenti entra l'acqua e ossida, capito? Se le cose le fai bene, poi c'è chi usa il grasso, però secondo me è sbagliato, perché poi quando vai a smontarla ti vai a beffa. Ci sono tutti i connettori di antenne, ci sono sempre i cappuccetti, devi utilizzare il cappuccetto per utilizzare, è ovvio. Al limite tocca il cappuccetto perché si può seccare, essendo di plastica, roba isolante. Ancora di fare una patata di nastro isolante, ma solo per tenerlo chiuso in modo che non si pacchia. Però grasso lo se ne mette, sono tutte fesserie quelle che uno può fare. nel braccio si mette nei tubi, negli elementi, uno dentro l'altro, ma non nella parte elettrica. Cos'è questa cosa? Mi aspettavo di più. Chiama il motore, dico. Vabbè. Ognuno che tu capa c'è che tu parita, se non la vediamo lo suo. Io non ne ho messo perché mi andava di più mettere vulcanizzate e così mi hanno accontentato come l'hanno fatto come ho voluto io. Perché mi lascia di brutta tutto, già ci siamo sporcati tutti quanti, cazzo. Tenendo quell'antenna sotto al maglione mi ho fatto una macchia di grasso allucinante, adesso un po' l'ho tolta, però lui non esce del tutto, cazzo. E uscire con quel maglione, se non ti metti giù molto si fa. Mi dà fastidio perché è nuovo, capito? Me l'hanno regalato da poco, a Natale. Appunto, te lo sto dicendo. Non lo può fare così. Con gasolio, lavano con gasolio quel pezzo lì. E poi lo metti in lavatrice o lo lavi a mano come deve essere lavato, questo non lo so. E poi vedrai che adesso si è seccato, no? Lascialo in mezzo alla nappa, tra quel pezzettino. E vedrai che si scioglie, e poi te lo lavi. Non ci sarà poi il fatto dell'olore, se non basta una volta non lavi due volte o tre volte, questo è un altro discorso. Sì, vabbè, adesso lascio l'uscita, metto il giubbotto sopra non si vede niente, tanto senza il giubbotto non sto uscendo, quindi. appunto, si chiede cosa, però te lo metto come devi fare, o gli metto la figurina attaccata nella macchia, oppure gli dai un bit, ne sai di pezzo non c'è più, così non si vede la macchia. E poi anche l'aria condizionata, se fai la fine terra c'è l'aria condizionata nel golf. Bella così. È proprio più giù dalla scella rimane. Vabbè. Anche tu ti sei macchiato loro qualcosa. Giubbotto. Aspetta un attimino, giubbotto già. E te ne è uscito? Sì, ho il grassatore. L'ho messo anch'io il grassatore, non è uscito, maledetto. L'ho messo anch'io il grassatore. E poi devi fregarevi. Ma non sai cos'è che il mio corpo è di là, è di quelli a righine, capito? Ce l'ha presente come? E a righine fine fine, sei intrufolato tra una riga e l'altra, maledetto. Vabbè, già, so quel qua. Giubbotto, vabbè, perché hai fatto il coso di... non so che materiale sia, vabbè, tipo... non so che materiale, non mi ricordo che materiale sia. Impermeabilizzato. Neanche, vabbè, comunque gliel'ho buttato, l'ho fregato bene, gliel'ho fatto agire bene, una volta che ha agito bene l'ho messo in lavatrice, lavaggio veloce e sembra che sia a posto. Meno male, dai, almeno tutto l'hai salvato. Io adesso l'ho tutto pulito, l'ho messo in lavatrice, quando lo stavo stendendo l'ho controllato, grazie a me ancora roba attaccata. Ma scusa un attimo Gianni, tu non hai visto il meccanico quando pulito, l'ho messo buffinoso, no? Con la tuta sporca, il lunedì mattina prima di entrare a lavorare, non l'hai mai visto? E allora te lo faccio così, te lo faccio vedere io, vai da Franco, il lunedì mattina, quello di via Gabriele Annunzio, che è un meccanico pulito, e vedi che tutta, che sembra una tuta uscita dall'annunzio in quel momento, perché? Eppure il meccanico anche lui, io penso che anche lui si macchia, no? Prima o poi, anche se non vuoi, anche se stai attento, prima o poi una macchia di grasso ti si attacca sicuramente. E te lo sta dicendo come devi lavorare, ma non devi mesi. E quello è il discorso. Fai come tu hai detto, vedrai che ne esce il pezzo. Se non glielo metto, è quello più veloce, prendi le pulpici, le tagli il pezzo, quello è più veloce. E così non sparisce la macchia. Il mio meccanico non lo conosci, già lo conosci. Siamo trovati anche l'altro giorno al poligono di tiro, lui va a tirare col fucile. Siamo andati a tirare con la pistola e li abbiamo trovato lì. E appunto, no, perché se avrei potuto fare altri nomi, ma non te ne faccio altri nomi, ma che quello uno di quelli puliti veramente. Tu lo vedi, stanno lavorando, tu devi vedere le chiavi, sono lucide, sempre lucide, tutto pulito. E così sì che deve lavorare il operaio come si deve, quello che sa veramente lavorare. Pulito sempre, pulito all'officina, tu vai a certi posti in barca di dare, chi si lo trattone, non è possibile che uno possa lavorare in quella maniera. Ho tutto l'altro brutto, tutto l'altro dello di grasso, tutto con le unghie che si fa nere come il carbone. Invece guarda tu a Franco, se non vedi mai poco così. Eppure Franco lavora dalla mattina alla sera e non va nemmeno al batti, prenditi, no. È una persona pulitissima lavorando. E dunque è pulitissimo anche come operaio, come si presenta all'officina. Con la tuta sempre bella pulita, stirata. È così che deve essere. Uno quando va da un meccanico deve vedere soprattutto queste cose. Se lui è messo bene, vuol dire che è una persona che lavora con serietà, con cervello, non tutto l'altro ben piloso, tutto l'altro bene di acqua, tutto l'altro bene di grasso, ma qua dentro un operaio o un pucaccione. Ecco come l'ha preso io. I meccanici di adesso si mettono i guanti, Giulio. Quelli con le unghie nere erano una volta, saranno i vecchi stampo, quelli che stai cedendo. Ma si vuole i guanti, quelli là che c'è quando fanno il lavoro. Io so, chi li usa, non è che sono tutti quanti, non è che tutti quanti usano i guanti, ma non è solo i guanti, che deve riservare, tutta la persona, con quello che abiti, con quello che ti metti addosso. Però sto dicendo, se sono meccanici, si muovono la tuta, si sa mettere le frasi, che non gliene scende a pezzi, non se la tolgono mai, tutta piena di là, e intanto dici lì, allora in officina mi do la multa, e che discorsi sono questi? Questi non sono discorsi, no? Vai Luca. Allora, non voglio, ma non cagare. È così. È come cerchi, io ne ho visto tanti operai pulitissimi lavorando, ma non ho visto il detto bucaccione, oppure quando vai nelle botteghe, nelle cose. Così quando andavo in certe falegnamerie di collega, così, mi venivano i scarponi antinfortunistica, ma non solamente alla punta, no. Anche nella trantale, anche nella tomaia, tutte le altre migliate, tutto l'altro la taglia, mi sono messo, devi vedere passare in mezzo alla montagna di serratura, in mezzo ai pezzi, non è questa cosa, ma quando mai uno deve lavorare in queste condizioni? Ma quando mai uno si rende conto che intanto ci tiene più tempo a fare il lavoro, quando dopo in mezzo alla mondezza? Uno deve essere pulito lavorando, il banco poi non ne parliamo, il banco tutto brutto, tutto pieno di golla, tutto pieno di zinta, ma quel banco di lavoro deve essere pulito, deve essere, perché se fa il banco di lavoro, si mette il lavoro che stai costruendo, e se non è pulito si ammacca il lavoro, perché meglio si ammacca se ci sono gocce di colla secca sul banco o queste cose qua. Per dire, in tutte le materie è così, ci sono quelli puliti e quelli porcaccioni. Vabbè dai signori, io vado a cenare che certo tra un po' me ne esco là, un paio d'ore. Ci sentiamo domani sarò a casa di sicuro. Due giorni già vanno bene, due giorni alla settimana uscire, dai, finché posso ne approfitto. Buona serata e buona cena quando la fate, ciao. Ciao Luca, dai, buona passeggiata, buon divertimento. Non è mandato il video, non ho visto il video. Ma non prende il telefono, l'ha capito. Andare, va, ciao Giulio, va, te ripeto. Ciao Luca, ciao. Buona passeggiata e buona sera, ci sentiamo. Capito già come la situazione? Io queste cose le guardo, queste cose perché non lo... vabbè comunque dai. Tu ricordi sempre una cosa, per poter valutare la qualità della persona, la prima cosa da guardare è proprio quella Gianni. Come si presenta al lavoro e in che condizione è l'officina dove sta lavorando, quello di lì. Io mi ricordo, veniva sempre un certo Giulio, si chiamava questo qui, che abitava lì in via Valdetta abitava, sì. Era un tipo che faceva dei lavori così, no? Aiutava chi ne aveva necessità e lo chiamava e lui, mi ricordo che passava da me e chissà noi lo guadagniamo io. Chissà un ristorante, sempre pulito dopo in terra, ma non siete valenti, come è giusto questo valenti? Se non vedo mai un briciolo di letteratura per terra, non vedo mai niente per terra. Perché così ti diranno un altro che adesso ormai purtroppo non c'è più, che l'hai conosciuto senz'altro anche tu, che è stato parecchi anni anche alla Feroce. Una montagna che era dura, le unità dell'elicottero può passare, ma se non puoi passare in alto, per carità, tutto pieno di mondezza, tutto pieno di spinti, tutto rovesciato, e gli avanti, e i ritagli di legname, tutto rovesciato. Ma quando mai non deve essere tutto sistemato negli angoli, invece a posto, appoggiato a muro, anche dietro i pezzi più lunghi dietro, i pezzi più corti davanti, in modo che quando ti serve un pezzo tu guardi e sai qual è il pezzo che puoi prendere. Tutte queste cose, tutto quanto è da tenere in considerazione. Oppure vai in officina, vedi, il banco tutto pieno di ferri, il banco deve essere, sì, pulito, i ferri devono essere appesi tutti quanti. Dai, uno sguardo, quando ti accorgo, la chiave da 30 mm, allora ce lo sguardo e ci butto la mano sopra, la trovo là. E invece se ce l'hai sul banco, tutti ammucchiati, tutti pieni di lato, tutti brutti, voglio vedere come fai a lavorare. Sempre brutto sei, brutto rimane. Sì, adesso si ritengono nel carrello direttamente, prendono il carrello e lo trasportano a parte all'altra, non ne appendono più di chiavi, io le tengo nel carrellino, quando li servono facciamo tutte le chiavi in fila nel carrello e le pigliano lì si grisiti. Se sono andati tanto lontano, una persona abbiamo nominato l'altro giorno, che ha fatto sul negozio e pari un magazzino. Appunto, l'hai lottato, eppure ci vanno, non portavano i motti di papa lì, no? E l'hai lottato, perché la gente guardami, certo non lo dice poi, no? A chi ci lavora dentro, non è che le dice, ma non è pulita l'officina, o questo negozio, non lo posso, non glielo dice nessuno. Però la gente che ci va, lotta tutte queste cose, e poi se ne fa una considerazione, se ne fa un concetto di quello che vede. Se dici che uno dice un po' cacciola, io c'è Maria. Qui lo sanno ve l'ho visti, i babarutti, come li chiamo io, se viene di grana, di cose di rimane. Siamo andati con l'andarino a prendere un pezzo per la macchina sua, Plaza Cristalli, che gli si era rotto. Poi non l'abbiamo trovato, l'ha preso l'uomo. E sulla multimutica, se c'erano questi qua, secondo me erano zingari, stavano spaccando dei motori di macchina, degli avvolgimenti per togliere il rame, cose, col cannello li stavano tagliando e poi li spaccavano con la mazza. Erano tutti pieni di grasso, tutti pieni in faccia, tutte le parti. Perché è così, già lo so, sì, purtroppo, ad esempio, anche se tu vuoi vedere, prendi tu uno sfasciacarrozze a tazza di pulito, vuoi da Macedo tu? Non so se tu ci sei mai andato a Macedo, vai anche da Repositore, sì, e tu vedi tutto quanto sezionato, settore per settore, ferro con ferro, acciaio con acciaio, tutto quanto, la rete con la rete, e il ferro con più di ferro, ma tutto ben sistemato come si deve, non buttato così, no, come certi posti, e certi su questa carrozza, due anni, meno poco di cosa ho avuto e di bucalia. E prova a venire a guardare lì, e poi vedi, tutto in ordine, così bisogna deve essere. Perché si lavora meglio, allo stesso tempo rendi anche di più, perché anziché stare gira a gira cercando, vultola, in mezzo alla mondezza, perché allora in quel caso lì sì, è il caso di dico la mondezza, mentre invece quando è sistemata anche la mondezza e la redditizia. Vabbè, certo che sì. E vabbè, giusto, ognuno. Ci sono dei mestieri che sono proprio mestieracci, ce n'è uno che viene a ritirare la carne da noi, dove lavoravo io, e va a ritirare la carne gli avanzi, a soffia, quella per me va con le mani, prendeva le buste con le mani, e rovesciava tutti qua, ma gli scendeva addosso, ci aveva cazzo gli stivali di gomma e questa tutta bianca, ma casa si riempiva tutto di liquame, che c'è carne anche magari che c'è da giorni, non la metto nel frigorifero perché passare una volta alla settimana, quindi fiacca, anche se il frigorifero dura fino a un certo punto. Toccano la carne con le mani, cazzo, un lavoro che ti fa vedere il vomito, solo a sentire l'odore che c'è. Ogni volta che viene quello lì mi allontanavo perché mi faccio vedere il vomito l'odore. Per forza, ma è così, è chiaro. È certo che il dealer non glielo ricevi, questo è ovvio. Perché tanto non è che potevi così riprendere quel modo, anzi addirittura offendere quel modo. Però lo vedevi e te ne facevi una ragione di quello che vedevi, ma è così già. La gente guarda, vede, giudica e poi scende, è ovvio, è normale, no? Oppure tu vai nella gente in un bar e vedi tutto il banco tutto pieno di cose, di tazzine, di caffè, di qualsiasi genere, tutto l'altro ammutolato. Che cosa è questa cosa? Prova andare la gente da City, tanto per fare un nome così né a caso. Prova andare la mattina da City e vi allottarti e vedi l'ordine che c'è dietro il banco. Oppure vai da mandare, anche da Montagliate lo stesso. Mentre invece vai in altri bar di zona, sempre lì, del Montagliato, mi dai un po' di tazzini, di tutto l'altro, di addirittura anche sul banco, se dobbiamo i tazzini, brutti. Tu mi dirai, ma in quel momento c'è molta gente, sì, ma ci vuole un'organizzazione anche se c'è molta gente, ma già ragione, è proprio perché c'è sempre molta gente che devi avere un'ultima organizzazione. E quello invece no. E tutte cose che si devono tenere in considerazione, cosa? Per carità. Oppure quando un bar che sembra un vendiuolo, non un bar, non per carità. Il bar deve essere un locale pulito dove la pulizia si deve avere a corpo d'occhio, così senza nemmeno guardare troppo a fondo. Ma ci sono certi posti, oppure intendo il fiago di Lumugino, tipo certi cicoli che ci sono, è un fiago di vinata, di pucci. Io, guarda, quando vado al bar mi fa un brutto effetto a me. Quando bevo il caffè penso sempre chi ci ha bevuto, quante gente, perché non li danno una sciuccata così e basta, non li mettono manco detersivo in queste tazzine, è una sciacquata così, le danno col dito e basta. La gente ci beve malata e così, questi fossi qui ti pigli di malata. E ti sono molto che hanno presentato la tazzina con rossetto anche per dirti, di una volta, io l'ho vista tante volte, è capitato nel corso di anni, no? Vedere le tazzine o in un posto nell'altro con un rossetto, perché proprio come se dicevo tu, nella nostra cucina così senza pregare la tazzina, ma fuori, ma non è così che si fanno. Certo, se poi non si ammucchia dentro sul banco, oppure dietro il banco che hai nel banco di Michisa, non si ammucchiano le cose. Uno cosa fa? Una volta, intanto devi essere attrezzato, devi avere di belle tazzine, in modo che cosa fa? Non meno che li usi, li prendi e li metti subito nella lavatrice, perché ci sono, o loro hanno anche la lavatrice. Ma ci sono quelle che da fare fretta le mettono sotto perché magari non hanno molte tazzine, invece devi essere attrezzato. Tu quando viene un cliente devi dargli sempre la tazzina nuova, pulita, non glielo deve lavare avanti, no. Deve essere già lavata, possibilmente dalla lavastoviglie o già, è così che deve funzionare. Beh, c'è che la lavastoviglie disinfettata, che magari devi dargli una sciuccata così sotto al rubinetto. Io ne ho visto parecchi qui, mettendo la sciacquata sotto al rubinetto e mettendola nello scolatoio, cazzo, per sgocciolare. Sempre questa, mi viene sempre questa cosa, quando sto bevendo il caffè mi viene sempre da pensare chi ci ha bevuto, chi non ci ha bevuto, c'è lo schizzino, lo dice di voi, ma quando lo faccio a casa mia sono tranquillo, negli altri posti, tipo in bar, così, mi viene da pensare quello. Beh certo, ad esempio, noi siamo andati, io e qualche amico, adesso non mi ricordo chi c'era anche, c'era anche mio cognato, poi chi c'era? Antonello, mi sembra, anche sia Antonello, e un'altra persona. Siamo andati qua, ma che c'è all'angolo, in via Pascoli, all'angolo di via Nusa. Brava persona, sì, quello che vuoi, gentile, tutto quello che vuoi. Ma tu puoi dire il banco, basta. Beh, noi siamo andati quella volta, lo vediamo via, io ci abbiamo morale, lo vediamo lui, no, che non ci siamo mai più entrati. Solo per aver visto il disordine che c'era delle tassine, eccetera. Dai, non è possibile, dai. Uno deve considerare la prima cosa quello. In quale locale sto andando? Sto andando in un locale pulito, in un locale affidabile, o in un dettaglio. Ma dove guardavi? Lì poi non ne parliamo. Lì, io lì. Prima sì, quando c'era quella ragazza, con la famiglia di Sosso, tu dovevi entrare e vedere quel parco com'era. Era una bellezza quando era bello pulito e in gamba, questo bello, bello pulito. Dove andare adesso a vedere? Addirittura il bagno che c'è sopra nel primo piano aveva perso, c'era una perdita. Nel solaio c'è rimasta la macchia per roba di 3 anni nel solaio. La perdita del bagno di quello che abita sopra, no? Si era rotto il coso, non so come si chiama, forse il sifone, del bagno, del water, ed aveva fatto proprio in corrispondenza dove c'era la macchina del caffè. Proprio un errore grandissimo nel solaio. Beh, alla tarde non si è mai andato per almeno 3 anni, forse anche di più, di prendere 5 kg di tinta e pulirlo quel pezzo di solaio, mai. Perché? Perché c'è un randaggio c'è adesso, ecco così. Davvero tutti quanti se ne stanno scappando, se ne stanno andando da quel parco. E chi c'entra più quello? Perché stiamo entrando? Lui, prima sì, quando c'era una ragazza di Sosso, oppure quando c'era Antonio, dopo in un secondo momento c'era Antonio, che era socio di quello che c'è adesso. Però quello, quando c'era Antonio, non c'era lì, quello lì aveva un altro locale, non so se dov'era, se era a Urbia o se era a Porto Cervo, non me lo ricordo dov'era. E poi cosa è successo? Antonio se n'è andato e si è preso un ristorante, si è preso dalle parti di Viaggio Giazzoni, in quella zona lì, si è preso e si è messo in proprio, si è messo. E lui invece è rimasto lì, è venuto lui in quel bar. Ma da quando c'è lui è diventato un attamaio, è diventato quel bar, non è un bar, no, un vendiolo, lì di mare buco lì. Che poi con la perdita del bagno dovevano essere acque rifle, dovevano essere praticamente acque fognarie, che se non è manco i giri. Appunto, se te lo sto dicendo, a parte il fatto che quando c'era Antonio e quando c'era quella famiglia di Sosso, adesso non mi ricordo come c'era, soprattutto questa ragazza, ma c'era sempre il padre, il vigile, se ne aveva uno tra l'andato, mi fa male, e cosa vuoi dire? Vai, vai, taglia. Ma tu non avevi clienti che aveva, la gente veniva, andava lì, tutti quelli dell'ente popolare, ascolta, andavano la mattina, andavano tutti quelli della Comer che c'è via Pasqua, andavano tutti quanti quelli della Guardia di Finanza che scendevano lassù, scendevano, da via Bandega, andavano tutti quelli della polizia, tutti lì andavano a prendere il caffè, perché era un locale come si deve. Adesso, ma come va andare adesso? A parte il fatto che adesso tu vedi drogati, vedi tutta gente che magari si prende la bottiglia della birra, no? E si mette in estate fuori, davanti alla porta ci sono le macchine parcheggiate e mettono la bottiglia della birra sulla capota della macchina. Ma la macchina può essere la tua, la mia o di chiunque altro. Vedo tutta a bosi, tutti a sticchirmi, tutti quanti dicendo parolacce, ma qua, ma non è un locale, così deve funzionare. Non deve funzionare così un locale. Oh yeah. Io invece sono andato l'altro giorno dato le nappie a mettere a gonfiare le gomme e l'ho trovato con una gamba come la mia, non riesce manco più a camminare. Ehi, oh yeah. da tonnellate quando era in via, io adesso sono un sacco di tempo, qualche annetto senza vederlo, da quando si è spostato da via Pascoli non l'ho più visto, per cui, ma prima già lo vedevo praticamente tutti i giorni, lo vedevo. Anche lì era già pieno di ragazze, di tutti quanti in faccia d'età, anche lì avevo lo schifo. Vabbè. A parte il fatto che lui era sempre a mano, lui faceva, andava un po' con la Roma e poi se ne andava al bar, se ne andava. Ritornava, andava a bar con la cliente, non c'era, lui era al bar. E qualche altro meccanico c'è in zona che fa così stesso. Non commissario, un meccanico in zona che fa così. Tu vai a comprarlo, vedi la gente sulla porta aspettando e vedono va, o da una parte o dall'altra. Nel modo di lavorare, per carità. Ce ne sono tanti così. C'erano anche in Viale Sicilia, c'era uno che stava sempre al bar, nell'entrato, lo stava sempre al bar, l'umilante e lui, tutta l'umanità, e andava a piccare per andare a giare al bar a piccare. Già lo conoscevo quello, sì, tu stai parlando Ugo, di Ugo stai parlando, quel tipo alto, era buonissimo. Vabbè, ma per dire no, eppure questa gente era così, d'altronde, non si voleva fare. Boh, comunque, tu vedevi, ad esempio, da Murito che ha lavorato 40 anni, 50 anni in quel magazzino, come minimo, 50 anni, e buone, forse anche di più di 50 anni, tu andavi lì. C'era sempre Vittorio fisso, non si spostava nemmeno per andare a prendere un caffè, nulla, anche se gli dicevi, io ho bisogno di prendere un caffè, no, poi adesso gli vai, non si spostavano. Mentre invece c'era Giulio andava con qualche amico, però Giulio aveva un'altra mansione, quell'officina aveva, perché si interessava delle vendite, perché lui aveva una specie di convenzione con la Piaggio, no? Tu magari volevi una moto, andavi da lui ed era lui che trattava con te per avere la moto magari della Piaggio, eccetera, capito? Era un altro sistema, però non è che aveva il vizio di andare a bere o di... No, assolutamente no, c'è una maniera più assoluta, sì, poteva andare a prendere un caffè, ma era un caffè, basta, no, andare 50 volte, no, ma... No, non funziona così, non deve funzionare così. Io gli ho comprato il sci nuovo, di nascosto di mio padre, e avevo fatto le cambiali, me lo ricordo ancora il ragazzino. Mio padre, le cambiali, fa questa moto di chi è la mia? Come le pagate con le cambiali? Tieni subito i soldi, vai e togli quelle cambiali, capo, così le cambiali. Poi mi ritorni a me subito, non me l'ha fatto prendere subito, me l'ha fatto annullare l'avviso di contatto, perché ha detto che poi ci andavano male, il cambiare era un casino. Beh certo, poteva essere, la gente di prima era così, aveva un'altra mentalità già, avevano, non è che come oggi, anche oggi è cambiato il registro nemmeno, oggi ci sono i bollettini. Uno fa pensare se sono i bollettini, ma è tutto diverso, prima di queste compagnie finanziarie non ce n'era, forse qualcuna così, ma se no il commerciante lavorava con le cambiali, prima era tutto questione di cambiali. E poi quando arrivava il giorno di pagare andava in macchina e dovevi stare una mattina intera per pagare. Oggi invece no, oggi è tutto diverso. Oggi a bollettino, addirittura puoi pagare tramite computer, con il tuo conto corrente, se lo detraggono da lì, oppure il bollettino poi lo paghi al tabacchino, in un tabacchino autorizzato. Ma prima la cambiata dovevi andare per forza in banca. Lui era tutto un altro sistema già. E gli anziani si sa, sì, ci sono stati sempre quelli che hanno anche usato le cambiate, però la maggior parte della gente comprava quei soldi direttamente già. Ma poi comprava tutti i contanti, che era peggio di me. Sì, anche io, tutte le macchine che ho avuto le ho comprate tutte i contanti, quelle nuove, quelle a seconda. una mano, sempre in contatto. Questa qua va bene, anche per le narrate, perché la macchina che così avuta. Però io le rate le pago sempre, non è che sia di chi si lascia un mese indietro e cose, ma no, io a quel mese lì, tu, a quel giorno lì, la rata è pagata. Io credo, e voleva dire, capita, io ho lavorato per oltre 50 anni a conto mio, e comparavano un legno sempre con tanti, sicura che il materiale è tutto in genere. E lui diceva, ah, guarda che se vuoi, ti faccio questa roba per lì, che io quando viene il cliente dico, quanto questo lavoro costa tanto. Allora, per iniziare questo lavoro mi deve lasciare per dire, non so, il 30%. Se vuoi, se no, io che ne vuoi. Mi lasciavo andare io con questo, già andavo a comprare un materiale, io che me lo facevo fare, perché non è che dovevo spendere i soldi lì a comprare un materiale malaiente. Sì, è capitato anche alle volte di non prendere niente, di acconto, è capitato, ma con persone tranquille, sicure, allora sì, ce lo potevo fare. Ma se era una persona che io non avevo mai visto, mai conosciuto, così per dire, no? Allora, questo qui è, quant'è? 5 milioni, ecco, quindi devi dare il 30% di 5 milioni, perché devo comprare il materiale. Ma non anticipi, no? Se io dovessi anticipare per tutti i clienti, non avrei avuto bisogno di fare, io trovavo questa scusa, no? Io l'ho preparato quando... Se io dovessi comprare tutti i materiali per tutti i clienti che vengono qua tutti i giorni, le ricevo, non avrei avuto bisogno di fare nemmeno falegnato, perché vuol dire che avrei potuto vivere in rendita, perché vuol dire che avrei avuto tanti soldi. Ah, ma cosa che è vero, gli avrei ragione, capito? Poi c'erano quelli che magari c'era prima con la moglie o con la fidanzata o il fidanzato, beh, non ha ragione, e invece con tutti i posti si dà racconto sempre per i lavori. E così, e io andavo e compravo il materiale questo, sempre, no, e così le macchine, e così tutto, e così il magazzino con i soldi, e così la casa, tutto quanto. Non ne ho comprato io di cose, mutui, ma la casa, no. Io facevo lavorando, oggi vado 500.000 lire a disposizione. Ecco, andavo 500.000 lire di materiale per fare la casa. E ho fatto la casa così, tutta andata in contanti, no a buffo, a debiti, mettendo debiti da un fatto da un'altra, no. Capito già? Vabbè. Tu avevi un lavoro che te lo poteva permettere, ma se un operaio che prende 1.200 euro al mese non lo può fare logicamente. Io la casa me l'ho presa con il mutuo, ho pagato tutto e adesso è rimasta la mia. Ho fatto sempre il ragionamento che pagare una vita era fondo perduto, invece pagare un mutuo poi la casa rimaneva la tua, quindi non ho mai preso casa in affitto, ho preso direttamente, ho comprato la casa con gli risparmi che ci avevo e ho dato l'anticipo e poi il resto ho chiesto il mutuo, come hanno fatto in tanti, dai, gli operai di solito fanno così. Diciamo che tanta gente fa così, quello già è vero, ma per dire no, io no, siccome io lavoravo sempre, la maggior parte delle volte ho lavorato come privato, ho lavorato, non mai con le aziende, con le imprese, sì, qualche volta ho lavorato anche con loro, ma quindi erano bisognisti e delinquenti, soprattutto i geometri, mamma mia, che gentaglia, non ti potevi fidare a fare dei contratti di lavoro con dei geometri, eccetera. Quando si mi chiamavano, mi c'era a fare un lavoro in una casa che sto costruendo, va bene, dimmi dove è questa casa, che sono i proprietari di questa casa, puoi trattare come no, perché devo trattare con te? Io vengo e faccio il lavoro, porto l'ora alla casa, o a te, e non dicevo che è tanto, perché non mi fido del lavoro degli operai che ci lavorano, o dei tecnici che ci lavorano in quella casa. Io faccio il lavoro per il proprietario della casa, perché il lavoro che faccio io va installato in casa del proprietario, non di quello che mi sta facendo la casa, capito già? E di Fulvio, tu andavi, se tu mi facevi fare la buona giovane, se me ne faceva. Nel frattempo loro si prendevano gli studi, abbandonavano la lavoro e si prendevano anche i tuoi studi, con la scusa dicendo che erano loro che dovevano pagare gli operai che avevano fatto i lavori, no? E dice, non è male, non riviene male, tu andavi a chiedere, ma io gli ho dati a geometra, io gli ho dati all'impresa. Hai capito come funzionava? Se no, io parlo direttamente col proprietario della casa e faccio il contratto, sempre il contratto, tutti i lavori, anche se sono contratti da 200 euro, porto un contratto copia a te e copia a me, con il padrone della casa. Loro ci fanno sempre lo sgoppo, no? Se facevano intermediari magari ci guadagnavano sempre, è normale che volevano farlo per quello. E vabbè, ci sono lì di piedi dalle parti. Beh, giù. Se ho fatto il cammezza, lì adesso vado a portare giù il cane, dai, anche se è un po' tardino. Oggi, vabbè, dai. Vado adesso perché tanto l'avevo portato verso le 5, quindi già va bene, dai. Lo porto adesso un pochino, perché non è che me la sento tanto con questa gamba così, io faccio fare due pisciatine e poi lo porto su. Va bene, dai, dai. Sentiamo, buona passeggiata allora. Alle prossime, ciao, ciao, a domani, ciao. Ciao, ciao, Giù, buona serata, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Chiudo.